Siamo arrivati a pagina 102, nel pieno della notte l'angelo in sogno, sarebbe la fuga in Egitto. A te la parola. Ecco, bene, grazie. Hai a disposizione mezz'ora. Bene, grazie. Allora, in effetti nell'ultimo capitolo che abbiamo letto avevamo visto l'arrivo dei magi a Betlemme, la visita dei magi e l'angoscia di quella notte perché si rendono conto che Erode è stato informato e quindi questo li riempie di paura. Allora questo è il capitolo in cui avviene ecco, la decisione e l'inizio della fuga verso l'Egitto. Nel pieno della notte l'angelo in sogno, ha intitolato così questo capitolo, e Giuseppe, la parte del suo ricordo, si intitola «Per me che non ricordo mai i miei sogni». Partirono il mattino presto per tornare al loro paese per un'altra strada, riferisce ai magi. Ma tutto ciò ci rendeva molto inquieti. Erode non ci avrebbe messo molto ad accorgersi che i magi non tornavano da lui. Aveva i suoi informatori sparsi per il territorio. Forse già sapeva che si erano fermati da noi, che erano entrati nella nostra casa. Con Maria cercavamo una soluzione rapida e prudente a quel pericolo. Ci colpiva che una cosa così bella come l'incontro di uomini pagani con il nostro Gesù, pieno di speranze future, la sua missione nel mondo, fosse allo stesso tempo occasione di angoscia. E involontariamente ci avevano resi noti a un re che uccideva i propri parenti pur di non perdere il regno. E gli avevano parlato del bambino come del futuro re dei Giudei. Non avrebbero potuto fare cosa più pericolosa per lui e per noi. Ma non gliene facemmo alcuna colpa, erano in perfetta buona fede. Se è nato il re dei Giudei, dove cercarlo se non nel palazzo del re? D'altra parte Simeone aveva detto a Maria, una spada gli trafiggerà l'anima. Ecco, come altre volte forse ci siamo detti, no? Nel meditare e per scrivere questo libro ho messo in evidenza anche questa mescolanza, no? Di luci e di ombre che spesso ci sono anche nella nostra vita e che nella vita di tutti gli uomini che vivono la loro esperienza sulla terra, e che il Signore Dio non ha voluto risparmiare alla sua famiglia di Nazareth, ma alla Trinità della Terra, insomma a Giuseppe, Maria e Gesù, e che a noi può confortare quando ci troviamo in situazioni analoghe, no? Cioè che anche delle cose molto belle, come appunto visite del Signore, come missioni che il Signore ci dà, come luci di vocazione, come ecco, portino insieme, proprio insieme, anche delle difficoltà, no? Così è successo a Giuseppe e a Maria e a Gesù. La misteriosità delle vie del Signore, dice Giuseppe, a volte mi atterriva, mi scoraggiava, mi era difficile capire il senso delle difficoltà per le quali lasciava passare la vita di suo figlio. Ma sapevo che il mio compito era custodire quel figlio e sua madre Maria e fidarmi di Dio e dei suoi disegni imperscrutabili di salvezza, no? Quindi anche alle persone più vicine a Dio, come Gesù, Giuseppe e Maria, non è tolta questa insicurezza, questo non sapere come mai, non sapere che cosa c'è in serbo per loro nel futuro. Però viene chiesta loro questa fiducia in Dio e nei suoi disegni imprescrutabili di salvezza. Quel giorno ragionammo le nostre poche cose nelle borse senza che si notasse. Ci dicevamo, torniamo a Nazareth? No, siamo conosciuti come gente che viene da lì, ci troverebbero. E dove andiamo? Intanto ci preparavamo e calcolavamo quanto tempo avevamo a disposizione. Se i magi fossero tornati a Gerusalemme sarebbero arrivati in poche ore, avevamo poche ore. Se Erode fosse venuto a sapere che erano partiti oggi e l'indomani non li avesse visti arrivare, forse avrebbe aspettato ancora uno o due giorni e poi avrebbe scatenato la sua furia. In questi pensieri e in quei preparativi ci raggiunse la sera. Ci coricammo preoccupati e tesi. Ecco, nel capitolo precedente avevo già descritto una notte un po' preoccupata e tesa, e questa è una seconda notte, no? Preoccupata e tesa. Nel pieno della notte arrivò l'angelo in sogno. Ormai sapevo come mi parlava Dio, e Dio sapeva come parlarmi per aiutarmi a essere sicuro dell'autenticità del messaggio. A me piace pensare, cioè mettere in evidenza attraverso il Vangelo, che quella cosa che sappiamo, no? Che ciascuno di noi è un figlio unico per il nostro Signore, quindi è una creatura unica, una sua personalità unica, no? Pur essendo poi tutti somiglianti per tanti aspetti, e che Dio ci ama come figlio unico, ci chiama in modo unico, anche nella sua modalità di parlarci, ci parla come noi siamo, no? E Giuseppe si accorge che il Signore, che lo conosce così bene come nessun altro, gli parla come lui ha bisogno di essere appunto avvertita, no? Lo faceva per me, che non ricordo mai i miei sogni, né mai li saprei raccontare. Per me che se mi viene un pensiero di giorno, penso che sia una mia idea e non che sia un'ispirazione divina. Per me che se qualcuno mi raccontasse che riceve in sogno avvertimenti dal cielo, tenderei sempre a non dargli molta importanza, a privilegiare il ragionamento vigile. Per me Dio aveva scelto quel modo ed era quello adatto. Ecco, l'angelo mi disse quella notte, nel Vangelo di Matteo, alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Ecco, mi piace pensare che appunto questo modo di parlare a Giuseppe, che si vede nella sua scrittura, cioè che a Giuseppe parla Dio spesso apparendogli attraverso un angelo in sogno, è proprio adatto a lui, che è fatto in quel modo come ho descritto, secondo me, perché così lui ha più sicurezza nel dire questa apparizione proprio autentica, io non me la sarei mai ricordata, io non ci do bado a queste cose, e quindi e sicuramente questa apparizione veniva poi accompagnata da una certezza che il Signore donava a Giuseppe perché si fidasse, ecco, di quell'avvertimento. Tra l'altro, come capiamo, questi avvertimenti del Signore arrivano cioè, su un terreno preparato, perché Giuseppe e Maria stavano ragionando, erano già pronti a capire, erano vigili, erano attenti, si rendevano conto di un pericolo imminente. E Giuseppe racconta: mi sollevai dal giaciglio, guardai Maria, ebbi un momento di titubanza come mio solito. Io descrivo un po' Giuseppe, sia forte, sicuro, deciso, padre della famiglia, sostenibile, però anche interiormente con momenti di incertezza e titubanza, come può capitare a ciascuno di noi. Mi venne in mente, ma perché una cosa così importante viene detta a me? L'annunciazione del bambino viene detta prima a me e poi molto tempo dopo a me. E quindi diceva, perché io devo avere questo avvertimento e Maria no, sta dormendo tranquilla e sicura. È bello però vedere come ciascuno di noi ha una parte importante nella storia della salvezza, insomma ciascuno di noi è importante per Dio, e nella Sacra Famiglia a volte è proprio Giuseppe, capo della famiglia, a cui è affidata la custodia di Maria di Gesù, che viene dato l'avvertimento sul da farsi, no? Guardare Maria, assopita nella sua dolce bellezza, mi fece scacciare quel pensiero fuorviante. Non era il momento dei dubbi. Svegliai Maria. Lei capì subito, solo guardandomi. Prese il bambino e se lo strinse al seno. Le spiegai. Mi disse, andiamo. Risposi, davvero ti fidi di me? Certo, amore, andiamo. Avevamo le sacche pronte. Caricammo l'asino e nel maggior silenzio possibile ci avviammo per il sentiero ancora illuminato da quel chiarore che aveva guidato i magi verso la nostra casa. No? Quindi immagino che la notte, anche con questo fenomeno della stella, no? Che sta lì nella notte, illumina un po' il cammino che loro devono fare per fuggire da quel luogo insicuro. Don Andrea? Sì? Un attimo di sosta per dire quanto dovevano esercitare la fede questi sposi, vero? Assolutamente sì, e questo è sorprendente, noi a volte pensiamo che loro, appunto, con questo privilegio di avere tra le braccia il figlio di Dio incarnato, non dovessero esercitare la fede, invece no, e non è stata risparmiata a Maria, come insegnava Giovanni Paolo II, la peregrinazione della fede, no? Vaticano II anche c'è, cioè la e quindi in questo anche sono per noi maestri e anche intercessori nella strada della fede, no? Perché loro hanno percorso questa strada della fede, no? È vero, hanno avuto questo privilegio immenso di poter guardare Gesù bambino, però è Gesù incarnato, il Verbo di Dio incarnato, però per loro aveva tutte le fattezze di un normale figlio dell'uomo, no? Quindi diciamo che per cui dovevano esercitare la fede nella sua origine divina e anche la fede in Dio che potevano avere la tentazione di pensare, come dice Gesù sulla croce, Dio mio perché mi hai abbandonato, come dice il Salmo, no? Salmo 23, quindi che forse loro a volte potevano pregare con quelle stesse parole, no? Perché è bello vedere che nei salmi la nostra preghiera può seguire questa strada, cioè quella strada di sincerità, di esprimere i nostri sentimenti. Ci sembra, Dio mio, che tu ci abbia abbandonato, no? Però in questo confidare il nostro sconcerto, noi in fondo facciamo un cammino di fede e torniamo a metterci tra le tue braccia e a fidarci della tua provvidenza, no? E della tua protezione. Ecco, a questo punto possiamo passare a quello che è la testimonianza di Maria, che io intitolo così: strappata a quelle pareti d'amore, no? Quando uscimmo silenziosamente dalla nostra casa nel chiarore della notte, trasalendo a ogni passo per la sorpresa delle nostre stesse ombre che incrociavano il nostro camminare, pensavo che ancora una volta venivo strappata alla casa in cui ero vissuta. Ecco, scusa, io mi immagino appunto loro avendo questo tipo, come succede a volte quando uno ha paura, sia per il buio, sia per che si sente barcata, no? Cioè, dalle spine, da quelli che vogliono far fuori il bambino, e uno può spaventarsi anche della propria stessa ombra, no? A volte lo diciamo come scherzando, di una persona che è molto paurosa, però in realtà quando c'è un pericolo effettivamente possiamo trasalire anche per un rumore dei nostri passi, no? E io mi immagino questa situazione in Maria e in Giuseppe, no? Pensavo ancora una volta venivo strappata alla casa in cui ero vissuta, a quelle pareti d'amore che conservavano il ricordo di momenti sublimi. Ecco, mi viene in mente che quando mentre leggo mi viene in mente così alcuni riferimenti che ho nel cuore. Quando parlo di pareti d'amore mi viene in mente che questa è una frase che piaceva appunto al fondatore del Musei, a San José María Escrivá, che appunto nell'epoca della fondazione, quando doveva costruire una casa, no? E non aveva soldi, doveva chiedere le mobili, allora poi diceva, ecco, queste pareti che sembrano fatte con i mattoni invece sono d'amore, no? Quindi vedeva anche nella costruzione di una casa fatta con impegno, con sacrificio, con fede, come che il segno dell'amore, cioè l'amore che a volte si concretizza, ecco, in mattoni anche, no? Perché sono segni anche della fede e dell'amore con cui cerchiamo di costruire la famiglia. E allo stesso tempo mi metto nel cuore di una donna che normalmente, ecco, sa forse ancora più dell'uomo arricchire le pareti della casa dove vive di tutto l'amore che in quella casa avviene, no? Quindi i luoghi della nostra vita, in modo particolare per la donna, che che è per tutti noi la nostra prima casa, dove nel suo grembo noi viviamo i primi 9 mesi della nostra vita, quindi la donna ha una particolare sensibilità per la casa perché lei stessa è casa. Ecco, lei sa vedere nei luoghi dove avviene la vita sua, del marito, dei figli, sa leggere l'amore e quindi costa di più lasciare i luoghi dell'amore, no? Quando per motivi vari, no, della vita si tratta di cambiare casa. E a Maria è successo tante volte, lei ricorda così, no? Da bambina avevo lasciato la casa dove ero nata e i miei genitori per il Tempio di Gerusalemme. Poi avevo lasciato il Tempio e le amiche di quegli anni di fanciulletto Serena in Gerusalemme per tornare dai miei più anziani e malati. Poi avevo lasciato la casa di mio padre per quella di Giuseppe, quando ci sono state le nozze, e la casa di Giuseppe per la grotta di Betlemme. Poi quella grotta che vide la luce del mio bambino divino era una dimora che speravo definitiva, a poca distanza. Mi piaceva avere, mi viene in mente il ricordo sempre di quei mesi di Betlemme più tranquilli e sereni, mi piaceva avere vicino il luogo della nascita di Gesù. Qualche volta, con il bambino in braccio sulle spalle, passeggiando per fargli prendere l'aria buona del mattino, vi ritornavo nel luogo della grotta in Betlemme a rivivere quella notte e a mostrargli la mangiatoia che era stata la sua prima culla. Adesso lasciavamo tutto e andavamo verso una terra sconosciuta, una casa che non sapevamo dove e come avremmo trovato. Mio figlio, il figlio del creatore del mondo, era venuto al mondo senza un luogo sicuro dove posare il capo. Eravamo Giuseppe e io, il suo giaciglio, il suo rifugio. Con Giuseppe ci confortavamo a vicenda. Quando lui era giù, io lo sollevavo. Quando in me si affacciava la paura, lui mi dava coraggio. Facevamo l'esperienza che l'amore è forza che vince gli ostacoli e trasforma il dolore e la paura in un'unione più grande. Ecco, come vedete, in questi ricordi di Maria, che ricorda quella notte di fuga, io metto dentro tante cose e c'è un po' l'esperienza, ecco, anche il dolore di vedere questo figlio che non ha dovuto dare il capo, come poi dirà anche Gesù da grande nella sua vita pubblica, e allo stesso tempo c'è l'esperienza positiva che io penso che in molti famiglie si fa, anche in molti gruppi di amici, cioè che c'è sempre qualcuno che ha la forza per aiutare gli altri quando stanno un po' più giù, no? Questa è una logica, secondo me, proprio soprannaturale, è una logica divina. Dio vuole che ci vediamo bene, vuole che nessuno di noi sia totalmente autonomo e che possa fare a meno degli altri, vuole che ci sosteniamo a vicenda e quindi lui dà la grazia a volte a uno, a volte all'altro, a volte alla moglie, a volte al marito, per aiutare il coniuge quando lui ha un momento più difficile. Mentre camminavamo verso la nostra meta, Giuseppe mi domandò: Maria, perché in Egitto? Si chiedeva: perché tornare indietro nel tempo, ripercorrere una storia di sottomissione e di schiavitù? Gli risposi: forse non dobbiamo pensare solo al periodo della schiavitù, ma anche alla storia di Giuseppe, il figlio di Giacobbe. Arrivò in Egitto per l'invidia e l'odio dei suoi fratelli. Quindi anche qui c'è già un'analogia, no? L'invidia e l'odio di Erode. Ma questo fu una provvidenza di Dio per salvarli poi nel momento della carestia, no? Quando poi Giuseppe riuscirà a dare a loro cibo. No? Anche questo nostro viaggio è provvidenza di Dio. Lui era esperto di sogni, il Giuseppe dell'Antico Testamento. Tu nei sogni hai saputo che dobbiamo tornare in Egitto, e Maria vede anche in questo un'analogia tra Giuseppe, suo sposo, e il Giuseppe della storia, della Genesi. Bello, bellissimo. Ci aiutavamo a vicenda a capire il mistero della nostra vita ricordando le scritture. Magari riuscissimo, Dontino, anche noi a avere questa familiarità con le scritture che aiuta momenti belli e difficili della nostra vita. Certo. Giuseppe aggiunse: vedete come Maria gli ricorda le scritture, gli ricorda Giuseppe dell'Antico Testamento, e Giuseppe si accende la memoria e dice: è vero, ti ricordi quello che disse il Signore con il profeta Osea? E qui cito Osea 11, 1, 3, 4, 8. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. A Efraim io insegnavo a camminare, tenendolo per mano. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Come potrei abbandonarti, Efraim? E Giuseppe, nel ricordare questo passo di Osea, si ricorda che questo Efraim è il figlio di Giuseppe dell'Antico Testamento. Efraim è figlio di Giuseppe. Forse qui il Signore sta parlando anche di Gesù mio figlio. Sta parlando a noi per confortarci. Quindi, ecco, se noi rileggiamo, mettendo Gesù fuori, a divide, insieme a camminare, tenendo per mano, no? Come potrei abbandonare Gesù, no? Quindi, l'avventura di Giuseppe mette al posto di Efraim il nome di Gesù. E Maria dice, e io sì, mi rispondevo. Ma il profeta dice che il Signore si lamentava, più li chiamavo, più si allontanavano da me, così continua la profezia. Con Gesù sarà diverso. Non cadremo nella schiavitù in Egitto, perché lui è la nostra libertà. E lui riporterà tutto il suo popolo Israele all'alleanza con Dio. Tu sei il nuovo Giuseppe e darai tuo figlio come cibo al popolo di Israele assamato. Il nostro Gesù che adesso dorme tra le mie braccia è il nuovo Efraim che non tradirà le attese di suo padre. Sarà il nuovo Mosè che guiderà tutto il popolo verso una nuova terra promessa che gli stesso ci indicherà. Quindi nel loro andare verso l'Egitto, nel loro pensare alla scrittura per capire un po' quel mistero della loro vita, anche il riferimento a Mosè è importante per loro, no? Mosè che in Egitto e poi ha guidato il popolo verso la terra promessa. Passavamo dai grandi discorsi alla preoccupazione di non farci riconoscere, di nasconderci bene durante la notte, di curare che il bambino non avesse contraccolpi, di procurarci cibo e acqua, di riuscire a riposare nelle notti fredde. Giuseppe accendeva il fuoco sotto la tenda e ci davamo in cambio per tenerlo acceso ed evitare che propagasse l'incendio. Mi disse una sera: l'amore per te e per il bambino mi prende sempre di più. In questi pericoli cresce e mi dà la forza per portarvi in salvo. Le sue parole placavano la mia apprensione. Nei silenzi del nostro camminare verso l'Egitto, ascoltavo, stringendo il bambino, il riemergere di uno dei miei dolori più grandi. Aver dovuto tenere nascosto mio figlio quando nacque. Solo i pastori si accorsero del suo mistero grazie agli angeli. E come via che va verso l'Egitto e ha in braccio questo mistero di Dio incarnato che deve addirittura fuggire ed essere nascosto a tutti, no? Da Elisabetta erano andati in tanti da tutta la regione, da Gesù pochi scopi. In quel momento addirittura dovevamo fuggire, eravamo sgomenti, il Figlio di Dio era con noi ma gli uomini non lo accoglievano. Quel dolore fu una ferita grandissima che mi portai dentro per tanto tempo. Gesù era l'amore e gli uomini non accettavano l'amore. Chiedevo al Padre continuamente: perché non ti riveli in tutta la tua potenza d'amore al mondo? Tu che sei il sommo bene, non puoi convertire il mondo solo mostrandoti? Il Padre mio non mi tolse queste domande, non mi alleggiai di quelle angosce. Io penso che questo a noi ci può aiutare, perché anche noi possiamo pregare così. Ecco, non è, il Signore non vuole che abbiamo sempre sentimenti perfetti, no? Si vede che nella vita io metto nel cuore di Maria, di Giuseppe, tanti sentimenti, cose belle, luci, cose tenere, difficoltà, bimbi, eccetera, no? E così è fatta anche la nostra vita. Quindi possiamo perfettamente pregare anche così al Signore, chiedere, fare domande, no? Compresi lungo gli anni che tramite queste domande potevo educare mio figlio a comprendere il cuore umano. Gesù sentiva tutte le nostre domande, partecipava. I suoi sorrisi più coinvolgenti li fece nei nostri momenti di maggiore timore. Anche Giuseppe restò sorpreso per la sua capacità di trasformare in tenerezza la nostra paura. Una notte ci fermammo a riposare, ci nascondemmo dietro degli arbusti che erano comparsi dopo tanti chilometri di deserto. Il silenzio della notte ci fece vivere, seppure insieme, la solitudine più grande che un cuore possa trovare. Fu il sorriso di Gesù, che si svegliò intera notte con il cuore leggero di un bambino che vuole giocare, ad aiutarci a capire che il deserto avremmo potuto viverlo con leggerezza. Perché l'amore di Gesù ci alleggeriva il cuore. Così imparammo a guardarlo. Era lui che ci indicava la strada che il nostro cuore doveva percorrere. Ma la paura era sempre in agguato. Ecco, a me piace appunto passare, cioè mettere in evidenza, diciamo così, no? Adesso mi viene in mente Manzoni che parlava del guazzabuglio del cuore umano, e c'è anche il Maria che pure non ha peccato, no? Cioè dal punto di vista, ecco, di questi alti e bassi, e anche, secondo me, e anche in Giuseppe. Tra l'altro mi viene in mente, pensando a Manzoni, che quando scrivevo questo Fuggire da Betlemme, cercavo di esprimere un po' il cuore di Maria, mi tornava in mente quella fuga di Lucia, no? Addio monte, sorgente dell'acqua, ecco. Poi ovviamente l'ho espresso in modo molto più semplice e non così poetico, e l'ho fatto come ho potuto, ma insomma, perché indubbiamente quello è comunque stato un seme letterario che mi ha aiutato, no? Quindi la paura era sempre in albato. Una sera sopravvenne una tempesta di sabbia. Non c'erano ripari all'orizzonte, solo alte dune. Giuseppe approfittò di un anfratto e scavò un rifugio che riuscì a chiudere con degli arbusti. Ci ritrammo coperti dai nostri mantelli. Quando la tempesta fu passata, Giuseppe sforzò gli arbusti coperti di sabbia e aprì un varco per noi. Appena uscito vide lo scenario cambiato. Le dune alte non c'erano più e si intravedevano all'orizzonte luci, presenze umane. Gridò con entusiasmo: Maria, c'è vita laggiù, siamo salvi. Strinsi a me Giuseppe e Gesù e ringraziai Dio con tutto il cuore. Mi dissi che anche nelle tempeste del deserto è possibile la leggerezza, perché il vento dello spirito può sollevare la sabbia e cambiare le dune. Il soffio dell'amore di Dio modella come vuole. Bellissimo quel capitolo, che è veramente un capolavoro, Andrea. Grazie Dantino. Che dobbiamo comunque applicare alla nostra vita, soprattutto queste ultime parole. Sì, chiediamo a Dio che possa essere così quando è il momento, no? Che avere l'esperienza di vivere la leggerezza dello sguardo di Gesù, che ci dà fiducia anche nei momenti difficili e di solitudine. Lo rilego. Mi dissi che anche nelle tempeste del deserto è possibile la leggerezza, perché il vento dello spirito può sollevare la sabbia e cambiare le dune. Il soffio dell'amore di Dio modella come vuole. Bravissimo, Don Andrea. Grazie, Antino. Speriamo che ci aiuti. Benissimo questo libro. Questa vicinanza di Giuseppe e di Maria è così vicina al nostro cuore e alle nostre esperienze di vita. Ecco, questo episodio della fuga in Egitto, che è un episodio abbastanza misterioso, perché non sappiamo poi come sia andata, no? No, non sappiamo, no. Non sappiamo neanche quanto sia durata. Esattamente. Però è uno degli episodi più importanti in assoluto, perché appunto lì i due sposi hanno dovuto al massimo esercitare la fede. Esercitare la fede e aiutarsi a vicenda nella fede, no? Quindi sostenersi a vicenda nella fede, certo. E so che poi i Vangeli apocrifi hanno molto insistito su questo episodio, appunto perché non ne sappiamo nulla. No, nulla. Poi hanno messo episodi molto miracolosi, infatti anche l'arte si è soffermata molto, e ecco, insomma, sono contento di aver avuto l'occasione, grazie a questo video anche per me, ecco, di soffermarmi un po' con le mie parole. Bene, su questo. Siamo giunti alla mezz'ora, dacci una bella benedizione per vivere bene la nostra vita di fede come la visse Maria. Diciamo determinando poi la sua assunzione in anima e corpo. Sì. Allora, per intercessione di Maria assunta in cielo, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su tutti voi e su tutti i vostri cari, speciali se malati e bambini, e su tutte le vostre intenzioni preghiera, e rimanga sempre. Amen. Grazie infinite, alla prossima, Don Andrea. Alla prossima, Dantino. Grazie, grazie, grazie.